Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Eccomi qui, caro Oscar, sono tornato. Fratello, sei tornato, Alessandro, sono contento. Dalle Seychelles si stava meglio lì, te lo dico. E questo non fatico a credere, non infatti per io te, con ma... la punta di dolore ti dico che sono contento che sei tornato. Qualche giorno in più ci avrebbe fatto bene, dai. Ma no, dai, ma se già mi massacrano due settimane, debosciato, peggio degli statali, non si sa perché poi gli statali, poveretti, vengono. No, ma che c'entra? Così. Quella era, prendiamola come espressione di legittima invidia di chi non ci va, vabbè, ma questo è... Vabbè. Comunque voglio ascoltare il santo di oggi. No, sì, te lo dico subito. Poi invece devi capire, anche chi perdona chi ti ha dato qualche espressione di quel tipo, perché il problema è finché c'è qualcuno che ci va, resta in noi la speranza di poterci andare un giorno. No, lo dico davvero. No. Allora, giustamente dici il santo, chiedi al cardinal Giannino, voglio sapere santo il giorno. Allora, il santo giorno oggi non è, o come molti potrebbero pensare, una rete televisiva pubblica, perché è San Raimondo, ma però oltre a San Raimondo e a San Canuto, auguri, che si chiama Canuto, e a San Luciano d'Antiochia, io dedicherei la giornata, se sei d'accordo Alessandro, alla memoria di Rukia Hassan Mohammed. È la giornalista che è stata eliminata dall'ISIS probabilmente addirittura mesi fa, perché fin dall'inizio era... all'inizio delle proteste contro Assad, col suo blog su internet da Raqqa contro Assad, poi contro l'ISIS, l'hanno eliminata, io gli dedicherei la giornata. Sì, voleva raccontare dal di dentro, era una delle poche voci libere che raccontava, cercava di raccontare da Raqqa, città ora in mano all'ISIS, che cosa stava succedendo. E infatti già il fatto che si sia saputo oggi che probabilmente è stata uccisa qualche mese fa, già questo fa capire anche... Perché nel frattempo hanno voluto beccare chi andava sui suoi siti per identificarli e acchiappare, questo è ciò che succede. Quindi insomma io la dedicherei laicamente a Rukia Hassan Mohammed. Allora, noi 800 24 00 24 per chiamarci, o 3492 386 666 se volete mandarci messaggi WhatsApp. Oggi parleremo un po' di Olimpiadi più avanti, caro Oscar, per capire se davvero queste Olimpiadi si deve fare, per esempio un referendum tra i cittadini per sapere se Roma deve candidarsi o no nel 2024. Non lo so. Io prima abbiamo discusso, non sono molto favorevole, sono favorevole al referendum come strumento, ma non su tutto, o non lo so, per esempio su questa storia delle Olimpiadi, perché, cioè, cosa ne sanno i cittadini di strumenti economici? Io non ne saprei, per esempio, di se le Olimpiadi convengono oppure no. Io penso di sì, invece, che sia. Sai perché? Perché siccome fare un referendum, hanno avuto quelli del comitato organizzatore, nonché politici, la faccia tosta di avanzare un'ipotesi di candidatura di Roma al Comitato Olimpico Internazionale senza lo straccio di un numero dietro, sì, il fatto di coinvolgere la scelta diretta dell'opinione pubblica li obbligherebbe a impegnarsi su numeri precisi. Vedremo più avanti, sottoporremo una riflessione su che cosa inducono a pensare, purtroppo molto criticamente, i numeri delle edizioni precedenti, a spiegare perché tante città che non hanno i problemi, grande città del mondo, che non hanno i problemi di Roma, hanno già detto no. È vero. In alcuni casi come Amburgo, dopo un referendum tra i cittadini. Una bella data per un referendum pubblico obbligherebbe politici e comitato organizzatore a essere più chiari sui numeri, visto che non hanno un numero in mano, e quindi poi solo dopo sapremo chi deve pagare, cioè noi, e non sapremo mai chi ha fatto affari, cioè loro. Comunque ne parleremo più avanti, ma voglio farti ascoltare un audio, sentite perché... Sentite, in Corea del Nord noi sorridiamo perché fa sorridere, ma la questione è molto, ma è molto seria. In Corea del Nord hanno annunciato di avere la bomba H, la bomba a idrogeno, ma sentite l'enfasi con cui la conduttrice della TV del regime lo ha annunciato. Gioce Pego, 2016년 1월 6일 10시, Gioce Giosone, Cho Susotan Siomi. Per la traduzione, Oscar, non lo so se tu sei attrezzato, però è il tono. No? Senti come ci crede. Però, poverina, l'abbiamo detto prima. Questa, quando gli è capitato il foglietto della notizia, ha dovuto fare appello al meglio di sé, ricordandosi o appaio al massimo dell'entusiasmo o mi tagliano la testa. Questo è il punto. Esatto. Quindi, poverina, è stato un Enrico Mentana potrebbe farle concorrenza. Povero, con l'enfasi. Dai, addirittura. Però vedi che annuncia la bomba H. Mamma mia. Salutiamo Enrico Mentana, nonostante sia interista. Ma va bene, va bene, va bene. Lo sono fatti vostri, sono fatti privati. Sono tragedie pubblico private. In realtà, io mi chiedo davvero, e tutto il mondo si chiede che cosa ci sia dietro questa minaccia, se è vera o non è vera, perché questa è l'unica domanda da porsi. Come si è visto, un'esplosione, no? Nucleare, sia essa termonucleare, poi la bomba atomica, c'è. La Cina evidentemente ha deciso di chiudere un secondo un occhio, e l'effetto che io segnalo subito a chi ci ascolta, eravamo al 6 gennaio, bene, al 6 gennaio è già la Banca Mondiale taglia le prospettive di crescita mondiale anche per effetto di questo, nonché di Arabia Saudita con l'Iran e di quello che sta succedendo nel mondo, e siamo già a un taglio da più 3,3 era la prospettiva di crescita mondiale stimata nel 2016 e già scendiamo a più 2,9, quindi un taglio già di più del 10% secco. Andiamo bene, se dopo 6 giorni già siamo a un primo taglio di crescita, e la bomba ha il suo perché nel dire si cresce di meno. Ci si chiede, visto che la Cina è uno degli alleati proprio che tiene in piedi Kim Jong-un, forse lo manovra anche a proprio piacimento. No, gli dà il riso senza di cui per 72 esatto. ore non avrebbero di che mangiare. Però oggi Romano Prodi, che di Cina se ne intende, dice che forse a Pechino comincia a non rendere più di tanto questa alleanza. A diventare un po' ingombrante. Cioè, io mi sono sempre chiesto come sia possibile, mi affascina anche l'ermeticità e l'ermetismo della Corea del Nord, però mi affascina, ma voglio dire, mi chiedo come possa esistere nel 2016 un paese ancora così dal chiuso. Dal punto di vista alimentare è la Cina che lo tiene in piedi, e la Cina l'ha sempre usato come un interruttore, diciamo così, corrente alternata per far capire ai giapponesi, a Taiwan e agli Stati Uniti, vabbè, state un po' più calmini, perché noi abbiamo uno strumento non ufficiale, non dichiarato, per creare qualche problema. È sempre stato così. È sempre stato così. Però, caro Oscar Giannino, so che devi darci una cifra. Prima faceva dei calcoli, l'ho visto prima, era ricurvo lì sulla scrivania, l'articolo, a dire guarda che qua si potrebbe risparmiare un miliardo, cavolo, se c'è da risparmiare un miliardo, dimmelo subito, come si fa? Allora, diciamolo subito ai nostri ascoltatori, lo punto è l'articolo, e gli deve essere reso merito, che pare sul giornale La Stampa, e c'è un conto su quanto si potrebbe risparmiare sull'articolo 18 applicato anche nel settore pubblico. Renzi e il governo sono contrari, come invece abbiamo fatto riformandolo nel settore privato sul Jobs Act. E quanto, allora, si, siccome l'incidenza della risoluzione dei rapporti, cioè licenziamenti per giusta causa nel settore privato è pari allo 0,6% qualcosa rispetto al totale dei contratti di lavoro privato, se prendessimo questa stessa percentuale sui 3,2 milioni di dipendenti pubblici, a quel punto noi avremo un risparmio per il contribuente e per lo Stato di 1 miliardo di euro l'anno. Ah, allora, cioè, se si applicasse lo 0,6% di risoluzione contrattuale anche nei dipendenti, cioè pubblici, si mandasse davvero la casa, certo, la gente per ragioni disciplinari, cosa, certo, che tante volte diciamo con le regole attuali si può fare, ma 0,6% non si fa. Allora io dico, scusate, primo, per questione di giustizia, perché averlo applicato solo il nuovo regime ai dipendenti privati e non pubblici? Secondo, adesso c'è anche la cifra, ci si risparmia. Ma guarda, su questo i nostri ascoltatori, dipendenti pubblici, poi ci scriveranno arrabbiati con sempre la solita storia: abbiamo fatto un concorso. Sembra che aver fatto questo concorso debba essere, non lo diciamo noi, lo dice la legge, debba essere una tutela da tutto, no? Da tutto. Capito, però ripeto, siccome i licenziamenti per giusta causa sono quelli per plateali violazioni disciplinari, non è che aver vinto un concorso ti, esatto, abilita a poter fare, esatto, violazioni disciplinari, esatto, e a rimanere titolare del posto. No, tutto qua. Esatto, io sono d'accordo con te. Comunque c'è un miliardino lì sul tavolo. Sai come? Un miliardino qua, un miliardino là. Esatto, un miliardino qua, un miliardino là, si recupera qualcosa. Come un passaggio qua, un passaggio là. Hai visto che oggi il Corriere della Sera fa queste? Io quando mi sono trovato in rassegna stampa di fronte a queste due pagine, 12 e 13, con 226 faccine piccoline di parlamentari. I parlamentari che hanno cambiato casacca, alcuni di loro più volte, dall'inizio della legislatura. 226, uno su quattro. Eh sì. Ma in quel caso cosa bisognerebbe fare? Farli decadere? Cioè non c'è il vincolo di la mandato? La mia opinione, ci abbiamo può... fatto una trasmissione, perché i dati di Open Policy ha pubblicato il Foglio, sì, il 5, e quindi Corriere adesso sto, giustamente ci torna sopra. Abbiamo fatto una trasmissione con il professor Carlo Fusaro. Abbiamo la seguente impressione: invece di perdere tempo a dire modifichiamo la Costituzione, sai che la Costituzione c'è, sì, la tutela della libertà piena del parlamentare, ci stabilisce il divieto del cosiddetto vincolo di mandato, esatto, basterebbe agire sui regolamenti parlamentari. Se in caso di cambiamento di gruppo al parlamentare non fosse più consentito l'iscrizione a un altro gruppo, e se non sei iscritto a un gruppo significa che non hai accesso ai soldi del gruppo, al segretario del gruppo, eccetera eccetera, punto numero uno. Punto numero due: impedendo la formazione di nuovi gruppi nel corso della legislatura, tranne quelli direttamente espressione di elezioni, il problema sarebbe risolto. Esatto, perché si creano i gruppi e i gruppi noi accedono ai finanziamenti. Consentiamo i gruppi addirittura in deroga. Fratelli d'Italia ha un gruppo in deroga. Ma non solo, e così via. Mi risulta che è nato un gruppo di eletti all'estero e nessuno di questi, tranne una. È eletta all'estero. Però nel curriculum tutti hanno inserito che hanno una grande attenzione, leggono libri di autori stranieri. Allora. 226 parlamentari hanno già cambiato casacca, alcuni più volte. Luigi Compagna 5 volte. E fieramente 5. Ha dichiarato che è pronto anche alla sesta e alla settima, quando è uscita la notizia. Ma perché? Perché? Ma voglio dire, ma un minimo di coerenza. Noi abbiamo, a parte che non eleggiamo più le persone, visto che diamo il voto ai partiti. Altro tema giusto. Quindi potrebbero obiettarci questo: tanto non ci avete votato, voi date il voto che a un partito. Che non protestate? Che mi hai eletto tu? No, e quindi... vabbè, insomma, va bene così. Dai, diamo gli Oscar. Non va bene così. No, non va bene così. E the Oscar goes to... Allora, io oggi voglio dare l'Oscar ai lavoratori del CNEL, che in attesa di chiudere si sono regalati i premi di produzione. Oggi lo racconta Claudio Marincola. Il CNEL deve chiudere, tra l'altro alcuni dipendenti hanno detto: beh, ma spostateci in anticipo. E solo tre di questi hanno accettato di spostarsi, e il resto, invece, racconta Marincola, giocano forse al sudoku, si girano i pollici, perché il CNEL ormai è uno strumento, infatti pare è un ente che vuoto, i premi, svuotato, i premi, no? Li danno ai miglior solutori, i sudoku. Chi fa il sudoku in 7 minuti al premio, a questo punto utilizza meglio il tempo. Si scherza anche lì, ma fino a un certo punto. Io invece lo do a quella che mi sembra una divertente, può sembrare una provocazione, però al suo perché la proposta lanciata dall'editoriale del Corriere della Sera, firmato dal professor Alberto Alesina, che controcorrente rispetto ai tanti che dicono tutti quelli che ci hanno rimesso in banca sono dei poveri risparmiatori traditi e ingannati. Sì, va bene. Allora, se sono però ingannati, propone il professor Alesina, facciamo una cosa. Ci vuole una patente, un patentino per poter investire dei soldi, per così dire, per farlo in maniera consapevole. Una cinquantina di domande elementari, però chiare, a cui dovete essere in grado di dare una risposta. Sì, ma Alesina dice tutti coloro che hanno un conto corrente dovrebbero fare questo patentino, e tra l'altro rinnovabile 10 anni dopo. Esatto, perché con la vecchiaia poi saremo amici, ma soprattutto la finanza fa passi avanti, quindi bisogna essere... Interessante, ma temo che dovremmo chiudere il 90% dei conti correnti. Già come andrebbe a finire, come la MIFID, sarebbe tutta la banca ti darebbe il precompilato con la barretta, certo, e facendoti così col gomito dicendo ma dai. Cioè tipo la multiple choice almeno. Dove rimane solo uno, cioè la casella che devi rispondere come quella dove puoi mettere la croce. Comunque Alesina propone questa patente. Però pone un problema giusto. Esatto, sull'educazione finanziaria ne abbiamo già parlato. Siamo il paese OCSE con la maggior percentuale di persone che non sa fare una operazione di interesse composto. No, ma è chiaro, il Sole 24 Ore sta facendo anche una campagna, sta cercando di informare, e l'educazione finanziaria Alesina, a lui l'Oscar. Allora, invece parleremo di Olimpiadi, tra pochissimo. Le Olimpiadi di Roma, c'è chi chiede, vogliamo candidarci? Facciamo almeno un referendum tra i cittadini, ne discuteremo tra pochissimo. 800 24 0024, siamo qui, caro Oscar, a parlare di Olimpiadi. Che belle le Olimpiadi, però sono belle le Olimpiadi, questo sì. Quest'anno mi pare di capire che quelle di Rio in arrivo saranno falcidiate dall'antidoping, vedete, la Russia manca. Non si sa com'è finita poi quella storia, la Russia verrà esclusa, boh. Secondo me è molto probabile che verrà esclusa la Russia di atletica, dell'atletica, insomma. Vedremo un po' che succede. Allora parliamo di Olimpiadi, perché come sapete Roma si è candidata alle Olimpiadi del 2024 sulla base di numeri zero. Oggi la stampa dice che si metterebbero sul piatto tra gli 8 e i 10 miliardi. Però insomma già 8-10 miliardi c'è una forbice di 2 miliardi. Ma capisci, non c'è un minimo di budget che dica costi, benefici, chi paga eventuali oneri cifrati, quali sono i benefici, sapendo però che non ci devono raccontare per l'ennesima volta, come capita a ogni evento pubblico e anche per l'Expo, come abbiamo visto è stato così, di moltiplicatori del PIL eccetera, cioè una cosa realistica e soprattutto alla luce dei disastri, di quello che sappiamo delle tante edizioni precedenti alle Olimpiadi, in cui Atene, i numeri sono andati su in maniera molto diversa. Molti associano il tracollo della Grecia proprio anche perché a Roma c'è il precedente, l'Italia 90 e dei mondiali di nuoto non proprio precedenti esemplari. Allora, molti economisti dicono: guardate che le città, poi che si aggiudicano sovrastima di benefici, poi si trovano sommersi dai debiti una volta che finiscono queste manifestazioni. Però dall'altra parte c'è chi dice: ma insomma, allora uno non può mai candidarsi, deve cercare di candidarsi. Sì, ma questa è la cosa un po' renziana di dire chi obietta è antipatriottico, perché vuol dire che non è più convinto del fatto che l'Italia possa far bene nel mondo. Io ne sono così tanto convinto che voglio dei numeri. Prima, numeri. Dopo, ecco. I numeri. C'è anche chi vuole invece un referendum tra i cittadini, cioè chiedere ai cittadini che ne pensate di fare le Olimpiadi. A Roma, per esempio, i radicali, che i radicali propongano un referendum non sarebbe una grande notizia, però insomma Riccardo Maggi, presidente dei radicali, buongiorno, ben ritrovato. Buongiorno a voi e agli ascoltatori. Insomma, i radicali che vogliono un referendum, quante volte si è sentita nella storia? Però Riccardo Maggi, però, ricordiamocelo, prima di diventare leader del segretario dei radicali, è stato consigliere comunale sui banchi di Roma, eletto in una lista collegata al sindaco, ma di quelle che anni prima diceva qua bisogna mettere il dito perché ci sono impropri collegamenti eccetera. Quindi insomma, dei guai di Roma e della finanza pubblica a Roma ne sa conosce, abbastanza. Ne sa. Ma voi volete un referendum a Maggi perché non conoscete i numeri o perché ritenete che i cittadini debbano esprimersi se si vogliono fare le Olimpiadi in una città come Roma? Ma per entrambi i motivi, che sono motivi collegati, i motivi che avete spiegato voi in apertura. Le Olimpiadi non sono un obbligo, candidarsi alle Olimpiadi, a tenere le Olimpiadi, sono una scelta, e la storia e le serie storiche di dati ci dicono che è una scelta rischiosissima, perché praticamente tutte le edizioni delle Olimpiadi negli ultimi 50 anni hanno comportato un'esplosione dei costi, con ricadute ventennali o trentennali in termini di pressione fiscale che è aumentata. Ci sono aumenti dei costi anche dell'800% rispetto ai budget iniziali, perché solitamente gli studi preliminari che vengono presentati, essendo commissionati dai comitati promotori, come dire, sono orientati. Però io, Maggi, prima con Oscar discutevo anche, sa che io sono d'accordo sul metodo referendario in genere, ma in questo caso ho delle perplessità, cioè che i cittadini possano decidere su elementi che non padroneggiano, nel senso, come sceglierebbe un cittadino di fronte, vuoi o no le Olimpiadi, sì o no, vedendo un paio di puntate di Matrix, di Porta a Porta? Intanto un primo effetto della richiesta di referendum storicamente è il fornire delle informazioni, aprire un dibattito, cosa che ora non c'è. Perché un anno fa, quando è stata presentata la candidatura dal Presidente del Consiglio e dal Presidente del CONI, era il dicembre del 2014, venne annunciato uno studio di fattibilità che non di c'è. Lì a due o tre mesi. Non c'è. È passato più di un anno, non c'è alcun documento. Quindi lei dice chiedere un referendum, e come diceva prima Oscar, serve a dire obbligare a dare tutti i dati a disposizione in maniera un po' più chiara. Ecco. Ricordiamo che ci sono dei precedenti molto vicini a noi. Poche settimane fa Amburgo, la città di Amburgo, e come no, si è espressa con un referendum che ha portato al ritiro della candidatura. La cancelliera Merkel inizialmente aveva detto di essere assolutamente favorevole alla candidatura, ha riconosciuto l'esito del referendum. E infatti l'estate scorsa a Boston ha ritirato la candidatura ancora prima di tenere il referendum, perché i cittadini erano contrari. Nel dibattito era emerso, insomma, con evidenza che non c'era. No, ma infatti guardi, lei ha citato Amburgo. Vogliamo salutare Oscar anche Roberto Giardina, che ci ascolta, il corrispondente da Berlino per il quotidiano nazionale. Giardina, buongiorno, ben ritrovato. Sì. Ad Amburgo è successo proprio questo, cioè hanno votato con referendum i cittadini? Sì, diciamo che il referendum non è contemplato dalla Costituzione tedesca a livello federale, ma a livello locale è possibile. Ad Amburgo hanno deciso di chiedere ai cittadini cosa volevano, erano 21.000 cittadini che hanno detto no, in più di quelli che dicevano sì, hanno vinto, e la loro decisione venne rispettata, cioè quelli che potevano votare erano 1.800.000, ha votato il 50,1, adesso la percentuale di chi va a votare non è importante per un referendum, e solo il 51,6 ha detto sì. Giardina, a fare la campagna erano i partiti nazionali che avevano preso una posizione. Ecco, la Germania è uno stato federale, quindi la Merkel non aveva nessun diritto di dire sì o no, comunque lei era favorevole personalmente. Amburgo è una città-stato, Amburgo ha deciso di sì o di no, era candidata prima anche Berlino, poi anche Berlino si è tirata fuori, quindi i tedeschi che hanno un po' più soldi degli italiani sono stati più prudenti. Bravo, bravo Giardina, a fare questa osservazione la penso come lei, ecco. Più prudenti, però Oscar, quindi la questione è questa: referendum, cioè, tu vorresti un referendum? Sì, io vorrei un referendum, perché obbligherebbe i signori molto laccati e molto in voga politicamente, sia con la destra che con la sinistra, che sono il pilastro portante del comitato organizzatore a Roma, e le diverse forze politiche che devono rispondere a Roma di un indebitamento che già è monstro e che avrà conseguenze per molti anni sulla città di sovraliquote, di numeri precisi. Devono indicare come se saranno in grado di fare davvero meglio di Londra. Ti ricordo che Londra doveva essere un'edizione, quella dei giochi del 2012, cui costava 4 miliardi, ne è costato 16, quasi. Allora voglio sapere. Beh, questo dove almeno sta... non è un vizio solo italiano, di sovracosti. Non è un vizio solo sovracosti italiano, che però si voglio capire da subito dopo. Chi si impegna, chi di fronte ai romani e agli italiani, a dire di questo poi pagheremo noi, gli amici di Tizio, gli amici di Caio, in che percentuale, eccetera eccetera. Io voglio sentirli in televisione. Se non si fa il referendum, svicoleranno tutti e tutto diventerà chi obietta. Ma tu Giannino pensa, sei un gufo, sei un gufo. Ma sai che dico, sai che lo stesso Malagò, presidente del CONI, annunciando la candidatura, aveva detto di voler consultare i romani. L'aveva detto, cioè, quindi insomma questa consultazione, insomma, Maggi è così, aveva detto di voler consultare i romani, in che forma? In realtà aveva detto che testualmente ha detto: nel nostro schema non è previsto il referendum, ecco. faremo dei sondaggi. Non è un sondaggio esattamente. Ma si parlerà la mattina con quello che è al bar, gli dà il caffè, che ovviamente per tenersi buono Malagò gli dirà: che bella idea, dottore, che bella idea che ci avete avuto. Questa è un po' all'italiana, se effettivamente, cioè o uno fa un referendum o non fa il referendum. Ma ti pare che vogliono fare il referendum? Ma no, infatti, ha detto di no, evidentemente. Sentiamo anche cosa gli fanno, cosa gli propongono, i meravigliosi risultati già visti a Roma per i mondiali di nuoto o per Italia 90. Dai. Bruno da Roma, ecco, ci chiamano da Roma, chissà perché. Bruno, buongiorno. Buongiorno Bruno. Buongiorno Giannino, buongiorno Mila. Volevo dire una cosa. Prima cosa, ci vorrebbe un sindaco che conosce molto bene Roma e non metterci un sindaco calabrese o milanese. Prima, fare ai privati. Ma povero Tronca. Tronca. Aspetta, è arrivato Tronca. Il comune deve dare tutto quello che può dare. Una bella metropolitana da Ciampino, che collega tutte le metropolitane. Ma che c'entra con le Olimpiadi questo? Per le Olimpiadi, fino al punto centrale delle Olimpiadi. Far camminare tutte le macchine da Ponte Milvio fino all'aeroporto Fiumicino, andate e ritorno sul Tevere, con uscite Monteverde, Trastevere, tante altre. Prima questo, le dice poi le Olimpiadi. No, lei ci sta svelando il nono episodio di Star Wars, come è evidente, non qualcosa che ha a che vedere con la realtà. I tassisti di Roma ringrazierebbe, perché eliminiamo tutto. Sì, ma Bruno, ma cosa c'entra con le Olimpiadi? Ce lo spiega? E come? Le Olimpiadi che fanno? Imbottigliamo il traffico. Ah, lei dice finché non si risolve questo è inutile fare. Cominciamo a fare delle cose. E così diamo a Piazza Venezia fare dei sottopassaggi, perché non si può ancora nel 2000 far passare. Ma lei sì che deve candidare assessore alle infrastrutture di Roma, c'ha tutte le soluzioni, tutte le soluzioni a portata di mano. No Bruno, diamo spazio anche agli altri ascoltatori. Sentiamo Alberto da Roma, la ringraziamo Bruno, Alberto è caduta la linea. Allora, sui costi, ma Giardina, prima però Oscar diceva, è vero, Amburgo è una città diciamo nella quale la Merkel non poteva intervenire, anche se era favorevole. Ma voglio dire, la domanda è: i partiti nazionali si sono spesi nella campagna a dire cari cittadini di Amburgo, decidete così oppure decidete cos'ha? sono esposti, anche perché era chiaro che non era un problema che attirasse molti voti, come ha dimostrato il risultato del referendum. Poi anche basta ricordare l'aeroporto di Berlino, che ancora deve essere finito, quando dovrà essere completato nel 2013, perché anche qui, quando si occupa la politica nazionale, i grandi progetti vengono, i prezzi, i costi si quintuplicano e vengono ritardati di non di decenni come da noi, come l'autostrada del sud, ma insomma di qualche anno. Quindi qui sono stati molto prudenti, non si sono esposti. Non si sono esposti. Vedi? Noi abbiamo un Presidente del Consiglio che invece fa propaganda senza dare i numeri ogni giorno su cose così. E a me questa cioè dire questa è la vetrina dell'italianità. Non ti piace questa frase, quella che ha detto? Cioè, no, fare le Olimpiadi perché è la vetrina. Sarà una vetrina se mi dai dei numeri precisi e indichi delle responsabilità talmente precise su chi paga gli eventuali sovraccosti e soprattutto mi dai delle stime che siano realistiche e non gonfiate sugli eventuali benefici di questo evento. Allora, poi, se tutto è ben fatto, diventa una vetrina, altrimenti diventa una cosa. Insomma, io sono torinese. Alla domanda, le Olimpiadi della Neve del 2006 a Torino hanno contribuito a una svolta per risolvere rapidamente alcuni problemi della città, tipo perché getterà? Risposta sì. Risposta poi alla domanda, l'eredità qual è? L'eredità è ancora le aliquote al massimo per tutti i piemontesi, perché la scia di debiti è molto elevata, è un mucchio di impianti non utilizzati a differenza delle roboanti promesse. Allora, siccome è capitato a casa mia, io perché devo augurarmi la stessa cosa a Roma moltiplicata per 10? Certo, tra l'altro ricordiamo Roma, Parigi, Los Angeles e Budapest, queste sono le quattro città rimaste in gara per le candidature. Però Maggi, ci faccia capire, segretario dei radicali, proponete un referendum, cosa vuol dire? Cioè, quali sono i passi e gli strumenti perché un referendum possa essere possa passare? In prima fase stiamo raccogliendo, diciamo, delle sottoscrizioni a una petizione su un sito nel quale abbiamo raccolto tutte le informazioni, c'è cioè una letteratura che sito è, lo dica, così, statunitense, sì. Canadese, molto ampia sul tema, e il sito è referendumroma2024.it. Ecco. Se non ci sarà una risposta affermativa da parte delle istituzioni, perché il referendum locale a Roma è possibile farlo se lo indice il sindaco o in questo momento chi ne fa le funzioni, quindi il commissario, se lo chiede il consiglio, che in questo momento non c'è, oppure per via popolare attraverso una raccolta di firme. Va avviata la procedura ed è quello che noi faremo se nel giro di pochi giorni non ci arriva una risposta affermativa da parte di chi è nella possibilità di indire il referendum. Intanto, insomma, il sito è quello, io sono già entrato, eccolo qua, referendumroma2024.it, tutto attaccato, ovviamente. Tutto attaccato. E qui ci sono già delle informazioni. Sentiamo Alberto, l'abbiamo recuperato da Roma. Buongiorno Alberto. Buongiorno Oscar, buongiorno Alessandro, buongiorno Riccardo, sono professor Guidi Riccardo, saluto entrambi. Volevo semplicemente dire che siete tutti sulla linea di una ragione. Ha ragione Oscar quando dice che l'esempio dei mondiali di nuoto sono stati certamente la cartina di tornasole. Ha ragione Alessandro quando dice referendum no, mi dispiace Riccardo per te. Ha ragione però Riccardo quando dice che presidente del CONI, che è un imprenditore, uno sportivo, deve mettersi chiaramente in mostra. E i numeri che ho sollecitato. Però perché dice referendum no, Alberto? No, perché non ha senso, perché bisogna, l'evento è indiscutibile, deve essere soltanto preparato, programmato, finanziato, sostenuto, affiancato. Roma c'ha delle situazioni che Riccardo conosce molto bene, indecenti, indecorose, lo stadio Flaminio, di che cosa vogliamo parlare? L'ex centro CONI di Riano, di che cosa vogliamo parlare? C'è una situazione allucinante di impiantistica sportiva che l'evento olimpico potrebbe rimettere nella disponibilità della cittadinanza, ma tutto deve essere fatto alla luce del sole, basta. È questo però che chiedeva Oscar, per esempio, alla luce del sole per ora non c'è molto. se non niente, o no? Sì, diciamo, dunque, io faccio un'aggiunta. Secondo me, io non riesco a capire chi sarà del prossimo sindaco, chi si candiderà con chance per fare il prossimo sindaco. Sui numeri della candidatura alle Olimpiadi si gioca un pezzo della sua credibilità, della complessiva credibilità dei numeri per governare tutti i problemi di cui ci sta dicendo il nostro ascoltatore. Volere o no le Olimpiadi, certo. Il prossimo sindaco si giocherà anche su questo, cioè voglio le Olimpiadi, non voglio le Olimpiadi. Perché, per far questo è quello di cui la città ha bisogno come moltiplicatore. Quando ci saranno questi numeri ragioneremo. Cristian da Pesaro, buongiorno Cristian. Buongiorno a tutti, buongiorno, salve. No, guardi, io sono il signore che mi ha anticipato, ha detto più o meno le stesse cose che avrei voluto dire io. Comunque sia, è una vetrina troppo importante per non farla, insomma. L'essenziale è che sia fatta bene, i costi vengano valutati bene e che alla fine gli impianti verranno rimessi a posto, saranno ricreati nuovi, eccetera, eccetera, rimangano usufruibili alla cittadinanza e vengano mantenuti bene e vengano mantenuti negli anni in modo che i ragazzi possano continuare a fare sport. Cioè, lei ci ha elencato, io sono d'accordo con lei, però io aggiungo che l'esperienza conta qualcosa. Tutte queste condizioni allineate sono condizioni in Italia non verificate. Per la verità non verificate neanche nelle altre esperienze olimpioniche. Esatto, no? E quindi allora... Però con questo principio cosa fai? Quindi nessuna città dovrebbe candidarsi, visto che nessuno l'ha mai fatto con i conti in regola. Eventi come le Olimpiadi e come anche grandi eventi fieristici internazionali sono le classiche, tra virgolette, vetrine per paesi che devono mostrarsi al mondo, sono classicamente paesi in via di sviluppo, che hanno o enormi risorse di commodi, petrolio, eccetera, quindi non hanno problemi di cassa, per così dire, e hanno anche regimi in cui della trasparenza si può fare a meno. E alla fine, guarda caso, se vai a vedere le candidature fuori dal vecchio mondo, a cui poi vanno questi eventi, sono moltissimi i casi. Queste, cioè è inutile. Però, che ci illudiamo, quelle che rimangono è sempre in questo stato caso, così. Parigi, Los Angeles, due grandissime città metropolitane, e poi Budapest. Allora diamo la Budapest per forza, perché è l'unica tra queste quattro di sicuro, che rispecchia, non sicuro, Parigi, non Los Angeles. Di sicuro Budapest, ma infatti se vai a vedere il dibattito che c'è su giornali intellettuali a Parigi e Los Angeles, vedrai anche lì che la gente è abbastanza terrorizzata. Dire, oh! Insomma, le Olimpiadi sono belle da vedertele, ma o in televisione oppure vai in una bella città dove le fanno, non sotto casa. No, io dico che per un paese che ha enormi problemi di trasparenza e di finanza pubblica disastrata e di città come Roma che sono soffocate dai problemi dell'ordinaria amministrazione, dei trasporti che non funzionano, eccetera, eccetera, che rappresentano priorità per me piuttosto che spendere per nuovi stadi, lo dico con grande sincerità. Ecco, io penso che noi dovremmo avere delle priorità commisurate alla gravità dei guai italiani. Sentiamo Giuseppe da Alessandria, buongiorno Giuseppe. Buongiorno Alessandro e buongiorno Oscar. Io sono di Alessandria, quindi lontano da Roma e non ho ben presente, tranne quello che sento e che leggo. Però città finita in default. Città finita, cioè, esatto. Sì, appunto, ma non so della situazione, sì, economica sì, ma com'è effettivamente il traffico e come no, città finita in default era Alessandria, non Roma. Ah, città di fondo Alessandria. Sì, abito vicino, sì, vabbè, appunto. Quello che devo dire è che per quanto riguarda il referendum, è uno scarico di responsabilità, a mio avviso, dalla parte politica, sia favorevole sia contrario, la parte cialtrona che non è in grado di assumersi la responsabilità di gestire un evento e quindi in ogni caso scarica la palla sulla cittadinanza che non è informata perché ricordiamoci cosa è successo con la legge 40, che è stato impiantato su un referendum. Il referendum, la gente non era informata perché non era informata, e sì, forse non è neanche la tanta penso voglia come di lei. Informarsi. In questo lei la pensa come Alessandro, però aggiunge un ulteriore elemento. Giuseppe, no, ma infatti lei la pensa come me, cioè dire che i cittadini, per carità, è delicato come ragionamento. Magi e Oscar ci aiuteranno. Magi, io sono contrario, ma non perché sono contrario al consultare il parere del popolo. Ma non è detto che i cittadini siano così informati in maniera dettagliata su cose così delicate. E il nostro ascoltatore dice più la politica e la politica scarica su loro. In realtà questa classe dirigente se l'assume come la responsabilità di decidere in maniera sciagurata. Quando si dice a noi che forniamo dei dati e degli studi che siamo gufi e invece chi governa senza fornire dati e pregiudicando l'utilizzo delle risorse pubbliche e dei soldi dei contribuenti, invece deve essere riconosciuto come un grande amministratore, un governante. C'è qualcosa che non va in questo paese. Tra l'altro, un aspetto importante è che questa città, la capitale d'Italia, avrebbe bisogno di riforme, quelle sì olimpioniche, in termini di servizi pubblici locali, di aziende municipalizzate da dismettere o da risanare veramente. E l'effetto del lancio di questa candidatura è stato prima di tutto quello di creare un diversivo elettorale. Da settimane le prime pagine delle cronache romane dei maggiori quotidiani riportano foto da cinegiornale del ventennio sulle Olimpiadi. La priorità è diventata solo questa, per ridare un ruolo anche simbolico di capitale a Roma. Un'azione un po' da storyteller, ecco, diciamola così. Beh, questa storia, diciamo così, insomma, un paese rifletta su una elementare fiaba che conosciamo tutti da bambini. Da bambini ci raccontano la cicala, la formica, no? Ecco, la politica italiana adesso ha al governo, insomma, e questa roba è diffusa anche negli ambienti imprenditoriali e così via, una serie di bei cicaloni che dicono a chi vuole fare la formica e vuole i numeri della formica che sono degli antipatrioti. Si sa come finisce. Poi. Goofy, le cicale portano la gente a divertirsi molto per un po', poi si crepa. Allora, io vorrei chiedere a Roberto Giardina anche un parere su quello che sta succedendo in Germania, a Colonia, perché no, abbiamo assistito a questa azione. Si sono capiti i contorni di questi assalti di Capodanno, le polemiche che si sono susseguite? Roberto? No, veramente diciamo, l'opinione pubblica può essere fatta, e i tedeschi si sono umiliati perché pensavano di essere migliori di noi, ecco, per usare una battuta facile, perché la polizia in realtà, pur non essendo uno stato poliziesco, qui ha sembra avere tutto sotto controllo, anche a Berlino dove ci sono uno su 10 è straniero, quindi non si aspettavano gli eventi di Colonia, e sono anche, ce l'hanno anche con la stampa, con la televisione, che hanno cercato di nascondere quello che era veramente avvenuto, perché avevano paura di questa bomba politica. Si è saputo pochi giorni dopo, infatti. Profughi arrivati solo quest'anno, si teme che ci sia una reazione da parte dei movimenti razzisti. Rischia in questo qualcosa politicamente Angela Merkel, che si era... Angela Merkel, naturalmente, anche lei aveva solo detto: io accolgo tutti, poi rimane chi ha diritto di rimanere, quindi quello che ha detto viene anche manipolato, non solo in Germania, anche e soprattutto all'estero. Lei naturalmente è sempre stata contro la società multiculti, questo anche personalmente, che a Berlino è fallita, no? Bisogna vivere tutti insieme, ma ognuno poi mantiene le proprie radici, questo è inevitabile. Allora, va bene. Ma non si è capito neanche se è puramente spontaneo o c'è dietro una qualche organizzazione, Roberto? Dice che sia organizzato, ma un'organizzazione che riesca a provocare incidenti ad Amburgo, a Francoforte, a Stoccarda, a Düsseldorf e a Colonia, è un po', non so, è tutto da vedere. Ringraziamo Riccardo Maggi e Roberto Giardina. Referendum, referendum no, dai, a domani.